Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Il calcio è soprattutto la passione dei tifosi, quelli che accorrono allo stadio per supportare la propria squadra cantando e inneggiando ai loro idoli come fossero dei del pallone, e quelli che tifano con trasporto e a volte disperazione davanti al televisore. Questa seconda tipologia di tifoso si comporta in modalità differenti. Chi si raduna con gli amici nel salotto di casa, pizza e birra ad ordinanza. Chi preferisce una pensosa e lacerante solitudine. Chi sceglie invece luoghi della collettività come pub o pizzerie. Questi tifosi gioiscono delle gesta dei loro beniamini in maniera indiretta, a fare da mediatori lo schermo del televisore, ma soprattutto le parole dei telecronisti, i nuovi edi dell'epica popolare del pallone. Nell'immaginazione dei tifosi la voce del cronista ha un ruolo determinante. Attraverso modi di dire, espressioni particolari, cadenze e accenti diversi, le grandi voci della radio prima, della televisione poi, hanno segnato e sostanziato la passione dei calciofili di tutta Italia. In questo senso ha sempre occupato un posto di primo piano la voce della nazionale, il telecronista destinato a cantare le gesta degli azzurri, un ruolo ambito e significativo che ha visto negli anni alternarsi alcuni dei più grandi commentatori della nostra storia televisiva. La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Le maggiori trasmissioni dell'odierno programma sono: ore 11, telecronaca dell'inaugurazione degli studi di Milano e dei trasmettitori di Torino e di Roma. La RAI inizia le sue trasmissioni televisive il 3 gennaio 1954. Un segno del destino è l'anno dei mondiali. Parallelamente ai progressi tecnici e tattici delle squadre in campo che si avviano verso il calcio moderno, inizia il suo percorso il racconto orale della partita, trasmessa allora in differita. Le partite dell'Italia vengono raccontate da Carlo Baccarelli. La star però è ancora Niccolò Carosio, che preferisce al nuovo e ancora acerbo mezzo televisivo le certezze che gli offre la radio, di gran lunga più diffusa presso il pubblico italiano. Una grande giornata della nostra difesa, con molti buoni spunti all'attacco, con diverse combinazioni non andate a segno solo per un soffio. Questo è il nocciolo e la sostanza di questa gara bella, combattuta strenuamente da ambo le parti, tesa con l'urlo, col boato dei 140.000 presenti qui stasera all'Hampden Park di Glasgow. E ripetiamo ancora, gara nella quale si sono messi in evidenza i nostri difensori. Anche la difesa scozzese è stata energica, nutrito il centrocampo, un pochettino... Ha segnato il terzino destro, Grigg. Ha segnato Grigg, e come sempre accade all'ultimo, difendi, ci scappa il golletto, purtroppo. 44esimo di gara. A conferma del fatto che il calcio ha sempre esercitato sulla popolazione italiana il fascino di un autentico trendsetter, grazie ai mondiali del 1954 si registra un boom nell'acquisto dei televisori. Il calcio raccontato, per evolvere nella direzione di una grande narrazione popolare, deve attendere alcuni anni. Il momento decisivo è quello in cui la cronaca si trasforma in epica. È il 1970. È quasi scontato dirlo. Italia-Germania 4-3. Drammatica partita fra Italia e Germania per l'ingresso in finale. Boninsegna ha saltato, Schutz, passaggio, Rivera, rete, Rivera ancora, 4-3. 4-3, gol di Rivera. La partita interminabile, destinata a iscriversi negli annali come il match della nazionale più sofferto, seguito e amato di tutti i tempi, dispensa emozioni anche grazie alla partecipata telecronaca di Nando Martellini. Ed ecco il fischio finale dell'arbitro. Telespettatori italiani, al termine di due ore di sofferenza e di gioia, vi possiamo annunciare: l'Italia è in finale della Coppa Rimè. I telecronisti della Nazionale sono spesso valutati con una logica divertente ma ai limiti dell'assurdità, in base ai loro palmarès. Quanto hanno vinto, quanto hanno perso, si dice, come se i titoli portati a casa o lasciati per strada dalla Nazionale, che si ritrovano a commentare, fossero in qualche misura anche merito o demerito loro. Ragionamento questo anche frutto della scaramanzia, fedele compagna di ogni tifoso. In tal senso, Nando Martellini è uno dei più vincenti. Secondo posto a Messico 1970. Quattro anni dopo, in Germania, va male, con la nazionale azzurra eliminata al primo turno dopo una figura piuttosto imbarazzante. Nel 1978, però, in Argentina, la rifondazione di Enzo Berzot, con i vari Rossi, Causio, Bettega, Cabrini, porta un eccezionale quarto posto. Eccolo il pallone di Gentile. Cabrini, Bettega, palo, ed è gol, ha segnato Rossi. Il capolavoro di Martellini, però, è il Mondiale 1982. Gli azzurri, dopo un inizio stentato, iniziano una cavalcata trionfale e memorabile. Dalla bandierina Conti. Calcio d'angolo, terzo gol di Rossi. Rivediamo il calcio d'angolo di Conti. Il tiro è di Graziani. La deviazione è di Rossi, l'ultima deviazione, tripletta di Rossi al 29esimo. L'Italia per la terza volta in vantaggio. In finale, al Santiago Bernabéu, davanti allo sguardo del presidente Pertini, gli azzurri dominano e Martellini con loro. Prima Cabrini fa tremare l'Italia sbagliando un rigore. Cabrini contro Schumacher, 25esimo del primo tempo. Cabrini è fuori. Arriva però il gol del bomber Paolo Rossi. Fallo di Rummenigge, fuori ali, battuta la punizione, cross di Gentile. Segnato Rossi. Poi va in gol Marco Tardelli. Bergomi. Tardelli. Gol. Tardelli, raddoppio. Tardelli. Uno splendido gol di Tardelli. E infine quello di Alessandro Spillo Altobelli. Va a terra Brigel, ma Gentile riesce a liberare. Conti, contropiede, 3 contro 2, siamo in vantaggio. Vai avanti Conti. Traversone, Altobelli. E sono tre, Altobelli. Terzo gol di Altobelli. Al triplice fischio esplode l'emozione di Nando Martellini. Palla al centro per Müller. Ferma Scirea. Bergomi. Gentile, ha finito. Campioni del mondo, l'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. La favolosa notte di Madrid, campioni del mondo, ma venne per caso, perché io usavo preparare per ogni partita una cartella in caso di vittoria, una cartella in caso di sconfitta, una linea per un commento, e avevo fatto così anche quel giorno. Soltanto che alla fine di quella partita le emozioni immaginate alla macchina da scrivere erano così diverse da quelle poi provate sul campo che buttai via tutto e cominciai a parlare con un entusiasmo che a un certo punto fu interrotto soltanto dal regista spagnolo che mi disse in cuffia uno minuto más, cioè parla ancora per un minuto poi basta. E riuscii a capire quello che avevo detto quando ascoltai la registrazione. Perché nell'emozione di quel giorno tutto quello che avevo detto era indubbiamente dettato così dall'entusiasmo, da un fervore, da una specie di raptus. E venne fuori così quel triplice campioni del mondo, che è rimasto forse la cosa più bella di tutta la mia carriera. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return. Da quella notte spagnola sono passati diversi anni e sono cambiate naturalmente anche le voci che hanno esaltato le imprese della nazionale italiana. In particolare, dopo Martellini, a partire dal mondiale successivo in Messico nel 1986, prende il microfono degli azzurri Bruno Pizzul. Il telecronista friulano lo tiene per 5 mondiali. Sfiora il titolo insieme all'Italia di Roberto Baggio, ma il suo sogno si infrange sotto il cielo di Pasadena. Quel cielo nel quale decolla il pallone che il Codino lancia malamente dagli 11 metri nel rigore decisivo della finale contro il Brasile. Roberto. Alto! Il campionato del mondo è finito. E naturalmente è una conclusione che ci lascia con grande amarezza. Gli azzurri non meritavano di perdere così ai calci di rigore. Pizzul, ormai in pensione, è stato un grandissimo telecronista, ma non è mai riuscito a commentare una vittoria mondiale. Vincere la Coppa del Mondo, anche per un telecronista, significa essere proiettati nell'Olimpo degli indimenticabili dello sport. Gli azzurri attendono 24 anni per sollevare la Coppa FIFA, gli anni che separano il 1982 dal 2006. Sono anni che rivoluzionano il modo di raccontare il calcio in televisione. Nascono le TV satellitari, che moltiplicano l'offerta e permettono al tifoso di scegliere, nel caso dei mondiali, su quale piattaforma gustarsi la partita e da quale voce farsela narrare. E poi si è consolidato il cosiddetto commento tecnico. Accanto al telecronista c'è un esperto, un ex calciatore o un ex allenatore, che approfondisce sul piano tecnico e tattico le osservazioni della voce principale. Si creano delle vere e proprie coppie fisse, con tempi e interazioni che contribuiscono allo spettacolo della partita. La coppia di destini incrociati di cui vi parliamo oggi sarà consacrata proprio dal Mondiale 2006, diventando un'istituzione del calcio televisivo. Ironia della sorte, il commentatore tecnico di questa coppia era in campo proprio al Santiago Bernabéu di Madrid l'11 luglio 1982. Si tratta di Beppe Bergomi. Beppe Bergomi. Giuseppe Bergomi è stato un campione straordinario, un difensore fortissimo e precoce e uno dei rari casi di bandiera del nostro calcio. Tutta la sua carriera è infatti legata ai colori di una sola squadra, l'Inter. L'amore per il pallone è qualcosa che cattura Bergomi sin da giovanissimo. No, guarda, tutto nasce fin da piccolino, avevo sempre il pallone in mano, quindi la disperazione dei miei che anche la sera mi dovevano chiamare per farmi rientrare a casa, quindi per strada prima, all'oratorio dopo, alla Settalese, che era la mia prima squadra del mio paese, al primo provino al Milan, che avevo 13 anni, poi mi hanno lasciato a casa e l'anno dopo sono andato all'Inter, ho fatto tutta la trafila dell'Inter, dai giovanissimi prima di arrivare in prima squadra, dove ho esordito il 22 febbraio dell'81, e da lì tutta la mia carriera si è sviluppata nell'Inter, dove ho smesso nel 1999. Ecco. Queste sono state insomma le tappe fondamentali della carriera. Sito sempre solo dell'Inter, per me è un vanto, un orgoglio, insomma, dire questi cose mi hanno fatto crescere, mi hanno fatto diventare famoso, e penso di aver dato tutto, insomma, per questa maglia, ecco, non mi sono mai risparmiato, quindi penso che il rapporto sia stato veramente efficace tra me e l'Inter. Una carriera all'insegna della precocità e delle tappe bruciate, quella di Beppe Bergomi. L'esordio avviene quando Bergomi, che è nato il 22 dicembre 1963, ha solo 17 anni. Ho esordito il 22 febbraio dell'81 in Inter Como, partita finita 2-1. Da quel match, di fatto, Bergomi diventa titolare nell'Inter, terzino destro di grande talento. Anche l'esordio in nazionale maggiore avviene bruciando subito tutte le tappe. Sì, ho esordito in nazionale, che era il 14 aprile dell'82 in un Germania Est Italia, dove Bergotto mi ha messo dentro nel secondo tempo e poi a giugno, insomma, mi ha portato a fare i mondiali dell'82 e ho avuto insomma la fortuna di partecipare a questa grande avventura che ha portato la nazionale italiana a vincere il mondiale, secondo me storico, incredibile, dove ha battuto tutte le squadre più importanti, dal Brasile all'Argentina, alla Germania. Bergotto ha avuto il coraggio di portarmi, insomma, un ragazzo di 18 anni e mezzo, a fare una fase finale di un campionato del mondo e poi buttarmi dentro nelle tre partite più importanti, vedi Brasile, vedi Polonia semifinale e la finale contro la Germania. Io ringrazierò sempre lui, ma i miei compagni, che erano degli uomini straordinari, dei grandi giocatori che mi hanno aiutato tantissimo. Ai mondiali 82 Bergomi si guadagna anche un soprannome che non lo abbandonerà più, Lo zio, per l'aspetto maturo che gli viene conferito dai suoi folti baffi. Vista dalla prospettiva del calcio di oggi, un diciottenne titolare in nazionale ai mondiali, per di più nella nazionale vincente, sembra assoluta fantascienza. Ma il calcio è cambiato, tendenzialmente, perché adesso le rose delle squadre sono molto più ampie, quindi cercare di portare su un ragazzo dalla primavera e farlo esordire in prima squadra diventa molto più difficile. Una volta, insomma, si stava molto attenti al settore giovanile e se c'era la possibilità il ragazzo giovane lo facevano esordire presto. In quegli anni, insomma, Mancini a 16 anni, io 17, i Maldini, i Baresi, insomma, si arrivava in prima squadra con, diciamo così, prima rispetto agli altri, no? Adesso il settore giovanile si tende alle squadre a tenerli maggiormente nel settore giovanile perché diventa importante il risultato. Quindi, e come ho detto prima, avere 30 giocatori in rosa di grande livello, soprattutto nelle grandi squadre, diventa difficile far esordire un ragazzo giovane e di conseguenza trovarlo in nazionale è ancora più difficile. Io non so mai dire mai, ma mi sembra impossibile, insomma, nel calcio moderno, nel calcio di oggi, poter vedere un ragazzo di 18 anni in nazionale. Poi ci può essere l'eccezione, il fenomeno, come può essere, non so, il Balotelli di Tuno, che secondo me è molto giovane, ma ha già giocato in nazionale, però insomma diventa sempre più difficile. La prima carriera di Giuseppe Bergomi, quella di calciatore, procede tra soddisfazioni e delusioni, ma sempre ad altissimi livelli. In maglia azzurra Bergomi gioca 4 mondiali, record che Bergomi detiene insieme a Rivera, Albertosi, Zoff, Maldini e Buffon. Avrebbero potuto essere 5 i mondiali se nel 1994 Arrigo Sacchi non avesse deciso di lasciarlo a casa. Sì, in Italia sappiamo bene o male che tipo di calcio si giocava, no? Calcio tradizionale, poi è arrivato l'avvento di Sacchi, che secondo me è stato veramente un precursore, uno che ha cambiato il calcio, e quando è finito l'avvento di Vicini è arrivato Sacchi, io poi anche con Sacchi ci ho parlato, lui mi ha detto guarda, forse con te ho sbagliato, perché conoscendoti tu sei un ragazzo applicato, uno molto attento, diligente, quindi potrei anche imparare il mio sistema di gioco, l'ho imparato più tardi, quindi... Però lui si è fidato di più di portare quelli che già conoscevano il suo sistema di gioco, già conoscevano, insomma, gli allenamenti suoi, e quindi mi ha lasciato a casa. Io non porto nessun rancore, anzi le rispetto anche, sono stato fortunato, ho fatto 4 mondiali, lui mi ha giustificato questa scelta, non subito, dopo anni, dopo quando ci siamo trovati a fine carriera, quando abbiamo avuto la possibilità di incontrarci, abbiamo anche un buon rapporto. Quindi ho saltato quel mondiale del 94 e la gioia più grande è essere ritornato al mondiale del 98 in Francia con Maldini, che insomma mi ha dato un'altra possibilità di giocare una fase finale di un mondiale. Beppe è così, mai una polemica, mai una parola di troppo, mai qualcosa fuori posto. In maglia nerazzurra non vince molto. A parte lo scudetto dei record, quello con Giovanni Trapattoni in panchina, stagione 1988-1989, lo zio si aggiudica una Coppa UEFA nel 1998 e poco altro. Sono anni difficili per i nerazzurri, che sotto la presidenza Pellegrini prima e nei primi tempi di quella di Massimo Moratti poi, tentano di recuperare il terreno che li separa dai cugini rossoneri. Nel 1999 l'Inter viene affidata a Marcello Lippi, ex allenatore della Juventus, che ha un'idea precisa di come deve essere l'Inter, giovane, fresca e senza troppi legami con le sue bandiere. Ma no, niente, è stato chiaro, io ho avuto un incontro con Lippi, lui mi ha detto che voleva ringiovanire, voleva cambiare un po' di giocatori, infatti quell'anno, vabbè, io ho smesso di giocare a calcio, andò via Pagliuca, Simeone, insomma. Io capisco anche tante volte quando un nuovo allenatore arriva in un nuovo ambiente, magari si fa condizionare dalle voci, da quello che dicono gli altri e quindi magari fa delle scelte secondo me un po' avventate, infatti poi alla fine, visto che i risultati non sono venuti, neanche pagate, perché è andato a toccare una spina dorsale che era molto forte all'Inter, quella squadra aveva un gruppo molto forte e unito con Simoni, ecco, lui l'ha voluta un po' stravolgere. Però poi avevo avuto anche un incontro con Moratti e mi ha detto lei può ancora giocare 2 anni, 3 anni, insomma io stavo molto bene fisicamente, stato presidente, ma io dove vado a giocare? Una volta via dall'Inter rimango sicuramente, cioè smetto, non vado a giocare da nessun'altra parte a 36 anni. E allora a quel punto poi ci siamo detto, ma ci troveremo più avanti, le nostre strade. No, insomma, la dinamica è stata questa e niente, a quel punto ho deciso di smettere. È a quel punto che per Beppe Bergomi si profila l'inizio di una nuova carriera, altrettanto straordinaria e vincente della prima. Una carriera figlia di un incontro che risulterà, al solito, decisivo. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati vi abbiamo riassunto in breve la storia del calcio raccontato, ovvero delle telecronache e dei telecronisti televisivi. Siamo partiti da Niccolò Careosio per arrivare a Bruno Pizzul e successivamente all'avvento delle TV satellitari e dei commentatori tecnici che ormai vanno a formare con i telecronisti coppie forti e inscindibili. Una di queste coppie, a 24 anni dal trionfo di Martellini con gli azzurri nel Mondiale spagnolo del 1982, riesce a raccontare agli italiani un altro trionfo nel 2006 ed entra nella storia. Ironia dei ricorsi storici, il commentatore tecnico di quella coppia era in campo ai Mondiali 1982, Beppe Bergomi. Bergomi conclude la sua straordinaria carriera da calciatore nel 1999 a causa di una controversa scelta tecnica dell'allora allenatore dell'Inter, Marcello Lippi. A quel punto si aprono diverse prospettive sul dopo carriera. Bergomi non ha il tempo di riflettere. Mentre si trova in vacanza, il destino bussa alla sua porta. Ma guarda, è nato tutto un po' casualmente. Io ero in vacanza in una casa in montagna, a Selvino, nelle valli bergamasche. Un momento, un pomeriggio, mi sono trovato sotto casa, sono arrivati l'ex direttore di Telepiù, Claudio Arrigoni, con Fabio Caressa. Sono venuti lì, li ho visti e li ho fatti entrare, accomodare in casa mia e ci siamo messi a chiacchierare, perché io poi avevo paventato l'idea di voler andare a fare un anno a giocare in America, mi avevano chiamato quelli dei New York, Metrostar. No, sono arrivata questa offerta di Telepiù e da lì ho accettato. Abbiamo cominciato proprio nel mese di agosto a fare qualche prova da tubo, insomma, cancellando magari commenti di vecchie partite. E poi la mia prima partita ufficiale l'ho fatta al Trofeo Berlusconi tra Milan e Juventus di quell'anno lì. Ecco, tutto è nato un po' così per caso. Una delle due persone che va a bussare a casa Bergomi, a Selvino, è l'artefice di questa svolta che rivelerà un esito straordinario. Si tratta, naturalmente, di Fabio Caressa. Fabio Caressa. Lui aveva fatto la conferenza stampa di addio al calcio da due giorni e io avevo telefonato subito al nostro direttore di allora, che era Claudio Arrigoni, e siccome Beppe lo conosceva, avevo fatto delle trasferte con l'Inter, avevamo parlato di calcio internazionale ed era uno che era molto interessato al mondo anche del calcio, cioè già la viveva da utente, da tecnico, da tutto, e siccome ha sempre parlato un ottimo italiano, io gli ho detto subito a Claudio, cerchiamo di prendere assolutamente Claudio Beppe il prima possibile. Siamo andati da lui a Selvino, abbiamo stabilito di fare una prova su una partita di Bundesliga di lì a pochi giorni, e di lì a pochi giorni, in agosto nel 99 mi pare, abbiamo fatto questa prova ed era il giorno dell'eclissi totale di sole. Quindi noi, mi ricordo benissimo, siamo usciti dalla telecronaca e c'era l'eclissi totale di sole. Ci siamo trovati a fare il primo commento a Telepiù, usciamo e c'è stato proprio un eclissi di sole. Se lei va a vedere nel 99 ad agosto, se mi ricordo bene la data, Caressa è più preparato di me su questo, lui se lo ricorda molto bene, e quello è proprio un segno del destino. Ecco. E da lì poi è partita la mia avventura con Telepiù e con Sky, insomma. Per la precisione, è l'11 agosto 1999, giorno dell'eclissi solare totale, il segno sotto il quale nasce la coppia di commentatori Caressa-Bergomi. Remembering games and daisy chains and laughs, got to keep the loonies on the path. Un'eclissi totale come auspicio, quindi, per una nuova, giovane, dinamica coppia di commentatori. Fabio Caressa arriva ai microfoni di Telepiù dopo una lunga trafila nel mondo delle televisioni locali. Ho iniziato nel 1986 a Canale 66 a Roma, poi sono passato a Teleroma 56 perché il Canale 66 era il secondo canale, che era la televisione radicale, poi era la televisione dove c'erano i famosi fili diretti di Marco Pannella. Lì ho fatto il telegiornale, quindi la cronaca e il calcio, seguivo Roma e Lazio. E nell'87 ho iniziato anche a fare le radiocronache, facevo le radiocronache all'inizio, siccome c'era una specie di accordo con altre televisioni, la Lazio quell'anno era in Serie B, io facevo le telecronache della Lazio per i tifosi ospiti, cioè Cesena-Lazio, Lazio-Cesena che è stata la prima, ho fatto la telecronaca per Cesena, per i tifosi di Cesena. Poi nel 91 sono passato a Telepiù, nel 94 sono diventato inviato e ho fatto un sacco di cose da lui. Però gli inizi sono questi. Le TV private locali in Italia sono nate nel 1976, quando una sentenza della Corte Costituzionale ha sancito di fatto la rottura del monopolio televisivo della RAI. Questi network potevano trasmettere solo in ambito locale, anche se alcuni canali, in particolare quelli dell'allora neonato gruppo Fininvest, ricorrevano al sistema della syndication per coprire l'intero territorio nazionale. Più televisioni sincronizzavano il proprio palinsesto trasmettendo gli stessi programmi registrati su videocassetta quasi contemporaneamente. In questa situazione di far west televisivo, su cui interverrà prima la magistratura e poi il governo con il celebre decreto Craxi che liberalizzava le frequenze, la qualità dei programmi era la più varia. Per molti attori, presentatori, registi e giornalisti, però, le TV locali, che Aldo Grasso chiama la TV del sommerso, sono state una scuola paragonabile al ruolo che ha avuto l'avanspettacolo per gente di spettacolo tra le due guerre. Allora era, ma è sempre così, è la migliore palestra possibile che si possa fare per diventare, secondo me, giornalisti in assoluto, soprattutto in televisione. Diciamo che prima c'era una tendenza minore rispetto ad adesso ad avere i famosi telecronisti di parte, cioè tifosi che fanno più tifosi che telecronisti. Adesso sei molto identificato se lavora una televisione locale, o se sei da Roma, o se sei della Lazio, o se sei dell'Inter, o se sei del Milan. Lì non era assolutamente così all'inizio. Attraverso questa palestra, Caressa giunge a fare il giornalista sportivo sulle frequenze di Telepiù. La sua formazione, però, è varia e completa. Laureato in scienze politiche alla Libera Università Internazionale degli Studi Sociali di Roma, diplomato in public speaking all'Università della California di Los Angeles e in lingua e letteratura ispanica all'Università di Salamanca, Fabio, classe 1967, costruisce la propria carriera attraverso una pluralità di esperienze di grande spessore. Nella stagione 1997-1998 arriva a commentare i posticipi di Telepiù alternandosi a Massimo Marianella. Alla fine di questa stagione Beppe Bergomi si ritira dal calcio giocato. Come abbiamo detto, Caressa non si fa sfuggire l'occasione di portare nel team di Telepiù un ex giocatore così preparato, garbato ed efficace. Nel trofeo Luigi Berlusconi del 1999, amichevole estiva di lusso tra Milan e Juventus, esordisce la coppia Caressa Bergomi. Da lì poi è partita la mia avventura con Telepiù e con Sky, insomma. E il rapporto con Fabio nei primi anni non volevano fare le coppie fisse, quindi potevo lavorare con Caressa ma anche con tutti gli altri telecronisti. Poi i primi anni c'era sempre un po' di riservo per quanto mi riguarda farmi commentare, non so, l'Inter contro il Milan o l'Inter contro la Juve, quindi queste grandi partite non me le facevano fare per i primi due anni. Poi dopo, se è pensato bene, insomma, che insomma la cosa funzionava, andavo bene, c'erano gli scontri positivi, hanno visto, insomma, la mia imparzialità, insomma, che era obiettivo nel commento anche con l'Inter, e a quel punto hanno cercato di farmi lavorare un po' su anche queste grandi partite, e poi hanno deciso, una volta, da quando è arrivato Sky, di fare delle coppie fisse, e da lì è nata la coppia Caressa Bergo. Abbiamo subito iniziato a fare coppia fissa. All'inizio, siccome Beppe era ancora molto legato alla figura dell'Inter, diciamo, all'inizio non abbiamo in realtà fatto tutte le partite insieme, lui soprattutto il derby Juventus-Inter non le faceva all'inizio, e poi comunque erano diverse coppie che si alternavano nel posticipo, diciamo, ce n'era uno solo, ne facevamo uno io e uno Marianella e Collovati forse all'inizio, e poi dopo, invece, dopo pochi anni siamo diventati coppie fisse. Oggi Fabio Caressa e Beppe Bergomi sono la coppia più seguita e amata fra i commentatori calcistici della televisione italiana. Il momento di svolta anche per loro, come per il grande Nando Martellini, è stato il mondiale, quello del 2006. Lo rivivremo fra poco, attraverso le loro voci. Beppe Bergomi è stato uno dei più grandi difensori italiani degli ultimi anni, capitano e bandiera dell'Inter. È la sua prima carriera, che si conclude nel 1999 a 36 anni. Bergomi non fa in tempo a riordinare le idee. Un giovane cronista dell'allora Telepiù citofona nella sua casa di montagna a Selvino insieme a Claudio Arrigoni, allora direttore del network. Arriva l'offerta: fare il commentatore tecnico per le partite di campionato. Bergomi coglie la palla al balzo e nasce così la coppia Caressa-Bergomi. Usa benissimo Oba Oba Martins, che prova a partire di forza ancora. Martins in area di rigore! Oba! Oba! Martins 3-1! E anche lui ha una buona media nei derby, eh? La grinta di Oba Oba Martins. Non hanno per la verità neanche esultato i tifosi dell'Inter. Eh no, perché questo gol è diventato molto bello, perché ha saltato ancora tutti e due, sia Maldini che Nesta. Poi col destro, che non è proprio il suo piede, che lui è più un mancino, ha fatto un gran gol. Questo è veramente un gran gol. Eccolo qui Martins di forza, poi incrocio dei pali. Imprendibile il pallone per Dida. Guarda, abbiamo, secondo me, ci completiamo bene, perché abbiamo due caratteri completamente diversi. Lui è un romano molto estroverso, lui è molto preparato, intelligente, conosce le lingue, ma cioè, veramente è un giornalista completo. Io da questa parte sono uno un po' più tranquillo, un po' più taciturno, magari un po' più razionale, e quindi queste due cose secondo me funzionano e vanno bene nelle telecronache, quindi ci completiamo bene da questo punto di vista, e penso sia questa la chimica giusta che ci fa rendere bene quando commentiamo. Ecco, lui è molto estroverso, io introverso, carattere romano, lui, io sono un milanese, e da questo punto di vista non lo so, la cosa funziona e va bene, io l'ho individuata in questo tipo di situazione. Io sono molto romano, lui è molto milanese, e questa è la prima cosa secondo me che fa la differenza, perché proprio come carattere siamo anche, io sono un estroverso, lui è un po' più introverso, io sono uno che spara, lui è un meditativo, io sono un istintivo, quindi siamo proprio uno il complemento dell'altro, siamo molto amici anche per questo secondo me. Così, grazie a questa interazione perfetta, la coppia si consolida fino a diventare il tandem di punta del palinsesto sportivo di Sky. In effetti le loro telecronache filano che è una meraviglia. Puntuale, preciso, preparatissimo, ma anche barocco e debordante Caressa, composto essenziale e asciutto Bergomi. Il suo è uno dei pochi commenti tecnici che funzionino davvero. Approfondimenti precisi e sempre interessanti, che non scadono mai nella sottolineatura superflua dell'ovvio. Così per i mondiali 2006 i due vengono scelti per commentare le partite dell'Italia. Sin dal match dell'esordio degli azzurri contro il Ghana, Caressa e Bergomi accendono i tifosi della nazionale. La temperatura emotiva è portata al massimo dal commentatore romano, mentre l'ex interista riporta tutto a una dimensione tecnico-tattica. Anche lui spesso si lascia andare, però, dando al commento un valore aggiunto che entusiasma i telespettatori. Saliamo ancora per il calcio d'angolo, questa volta lo scambio è nostro. C'è Pirlo, libero, potrebbe anche calciare. Lo fa! Molto bravo, ha sfruttato ancora un'indecisione sui calci da fermo, si sono addormentati dentro l'area di rigore, palla dietro e Pirlo calcia molto bene sul secondo palo. Chisto non l'avete fatto. Cantata dalle cronache di Bergomi e Caressa, l'Italia di Lippi continua la sua avventura nel mondiale tedesco, arrivando fino alla finale. Quello è stato il mondiale che ci ha consacrato sicuramente, perché, ma lì guardi che Caressa, quando avevamo preso i diritti l'anno prima, mi ha detto, lui è un po' uno stregone, mi ha detto guarda che vinciamo il mondiale, e lui ci ha creduto fin dal primo giorno, e quindi insomma l'abbiamo preparato bene, abbiamo trasmesso veramente le emozioni, perché il calcio è emozione, e quindi quel mondiale è stato quello della svolta che ci ha consacrati in modo assoluto per quanto riguarda questo tipo di lavoro, ma soprattutto per quanto riguarda Fabio sotto l'aspetto professionale, per lui è stato veramente importante. And what silenced me is yet turned into love. I can't believe what circumstances threw me, then I turned my head away. If I look, I'm not sure that I could face you. Not again, not today, not today. Il 9 luglio del 2006 l'Italia affronta la Francia per la finale dei mondiali di calcio. Caressa e Bergomi presentano così la partita all'ingresso in campo delle squadre. Io sono un uomo di campo, io so cosa vuol dire combattere per vincere, io sono un uomo di sport, io so cosa significa vivere nel gruppo, leggere negli altri le tue stesse speranze, io so cosa significa avere un sogno comune e trovarsi a un passo dal realizzarlo. Io conosco i pensieri che attraversano le vostre menti, le paure che dovete vincere. Io ci sono stato, io so che potete farcela, che farete di tutto, che sentite che vi siamo vicini. Adesso ragazzi, adesso è il momento, noi ci crediamo. È il 9 di luglio del 2006, è l'Olympia Stadium di Berlino, è Italia-Francia, è la finale. La finale è un caleidoscopio di emozioni. Prima va in gol la Francia su rigore, poi pareggia Marco Materazzi. È pronto ad andare Pirlo, il secondo palo, il palo d'arrivo! Infine succede di tutto. I tempi supplementari, l'espulsione di Zinedine Zidane. E un po'. Ma no! E no! E no! E no! Non si può! Rischia di rovinare una carriera con una testata indecente Zidane. Vedi che lo prende, lo tiene. Bella, ce l'abbiamo tutta. Tienila Angelo Pedrosa. Niente, non è successo. Indecente, un'indecenza. L'ha visto, adesso ti ricordo. No, non l'ha visto, gliel'hanno detto. Rosso per Zidane che se ne va giustamente sotto la doccia, sotto la doccia, sotto la doccia, sotto la doccia. E poi i rigori. Al difensore Fabio Grosso capita il tiro decisivo dal dischetto, quello che vale il mondiale. L'Italia tiene il fiato sospeso, pronta a esplodere. Anche Caressa e Bergomi. Del 2006 decreta definitivamente l'affermazione di Fabio Caressa e Beppe Bergomi, coppia inscindibile del calcio parlato in Italia. A volte accusati ingiustamente di eccessiva partigianeria da tifosi particolarmente sensibili di varie squadre di club, altre volte tacciati di essere sopra le righe, Caressa e Bergomi sono un patrimonio del nostro calcio, continuatori di una fertile tradizione di telecronisti e commentatori. Non è un caso che una nota azienda di videogiochi li abbia scelti come voci per commentare l'edizione italiana di una simulazione calcistica di grande successo. È bella come esperienza, perché poi i ragazzini adesso quando mi vedono non dicono Beppe Bergomi che ha giocato nell'Inter in nazionale, ma lui è la voce della PlayStation, hai capito? Quindi guarda, adesso proprio in questi giorni andremo ancora in sala di incisione per registrare FIFA 2012. È stata una bella esperienza, mi piace. Dura, perché insomma non è facile, c'è un bel lavoro dietro, però insomma fa piacere, nel senso che poi quando vai in giro dico che ti riconoscono ancora i bambini, quei piccolini, però la tua voce entra nelle case di tutti e fa piacere. Tra pochi istanti l'arbitro darà il fischio d'inizio e le due squadre cominceranno a confrontarsi per puntare alla vittoria. Prepariamoci ad assistere al classico di Spagna fra Real Madrid e Barcellona. Pur non essendo un derby in senso stretto, è sicuramente fra le partite più calde che ci siano.